Beh, sì, in questo contesto più generale, dove cioè, si verifica quello che noi avevamo anche avuto la capacità di cogliere, ma non abbiamo avuto la capacità di rappresentare. Perché che ci fosse un disagio sociale molto forte, un bisogno, una richiesta di cambiamento e di discontinuità, l'abbiamo visto. Io ho fatto la campagna elettorale, come piace anche a me fare, davanti ai luoghi di lavoro, alle mense interaziendali, e questa cosa qui era molto molto evidente, però non siamo stati in grado di rappresentarla, purtroppo non siamo risultati evidentemente credibili per rappresentare questo disagio, questa esigenza di discontinuità, e quindi questo voto è andato direttamente a 5 Stelle e ha portato una sconfitta direi di tutte le forze che si richiamano all'esperienza storica della sinistra. Naldi, mi scusi la domanda brutale, sono Michele Pompei. Perché non siete stati capaci? Le faccio una domanda molto diretta. Non siamo stati capaci, penso, perché al di là del merito delle persone, forse la nostra proposta politica era troppo segnata da esperienze del passato. Questo io penso che è anche da presenze istituzionali, perché effettivamente è difficile, adesso lo dico in maniera, sì, dico in maniera molto secca, mi chiede di essere preciso e secco, è difficile rappresentare il disagio sociale, diciamo, presentando fra i principali, il principale esponente della nostra lista, presidenti di Senato e di Camera, no, al di là del valore delle persone. Quindi questo secondo me è un elemento che ha avuto la sua importanza. Una crisi questo, però sì. Poi non bisogna al tempo stesso dimenticare che è la fine di un'epoca, perché se pensiamo, io ho detto prima, tutte le forze che sono richiamate all'esperienza della sinistra o del centro-sinistra, se pensiamo che l'appello al voto di Prodi a favore di Insieme è stato praticamente ignorato dai cittadini anche di Bologna, l'appello al voto di una persona che pure è stata molto sponsorizzata in questa campagna elettorale come la Bonino, non mi pare che abbia avuto anche questo un gran successo, il PD sappiamo com'è andato, Potere al Popolo ha avuto un risultato, diciamo così, assolutamente modesto, quindi direi che tutte le forze che si ispirano a sinistra, che fossero riformiste moderate o anche le più radicali, hanno avuto comunque un risultato veramente disastroso, parliamoci chiaro. Fa impressione vedere anche in questa regione il fatto che il centrodestra ha superato quello che rimane del centro-sinistra. Poi non è detto che, diciamo così, se ci fossero elezioni regionali l'esito sarebbe necessariamente lo stesso, però sicuramente è un segnale molto ma molto netto, ed è secondo me la fine di un'epoca per le cose che ho detto prima. Certo, ecco, abbiamo sentito prima anche le parole di Vasco Errani, che oggi ha tenuto una conferenza stampa, e lui ha detto sostanzialmente serve chiarezza e serve anche discontinuità in alcuni casi. Ecco, può avere contribuito in un qualche modo al risultato di LeU nello specifico il fatto che nelle componenti, diciamo, di questa lista ci fossero anche persone provenienti da esperienze politiche, insomma, che hanno fatto hanno avuto una discontinuità con il PD di Renzi solo verso la fine, diciamo, perché appunto MDP in particolare aveva dentro elementi che hanno votato, ad esempio, la riforma del Jobs Act o la riforma Fornero, eccetera. Ma questa è una cosa che Io ho fatto diverse iniziative con Vasco Errani, nel senso che l'ho accompagnato anche in alcune realtà aziendali, e sì, è quello che ci siamo sentiti dire da molti lavoratori. Il che non veniva rimproverato a Vasco Errani nel caso specifico, perché lui è, diciamo, ha avuto storie diverse, ma sì, questo è un elemento sicuramente presente. Poi dobbiamo anche dire che diciamo, la campagna elettorale che abbiamo fatto qui a Bologna, in Emilia Romagna, qualche differenza positiva rispetto a altre parti d'Italia l'ha realizzata, però insomma è un motivo molto limitato di soddisfazione questo. Naldi, insomma, i risultati sono stati decisamente impietosi, anche perché l'operazione Leo all'inizio era stata presentata anche un po' con una certa roboanza, con l'idea che fosse Leo che in qualche modo avvocasse a sé la vera natura del PD e volesse riprendersi in qualche modo un popolo tradito. La percentuale che è stata ottenuta ovviamente ha mostrato l'enorme limite di questo progetto, di cui lei insomma ha già riassunto alcuni punti critici rappresentanti: il fatto che ci fosse magari poca discontinuità rispetto al PD. Domani un altro giorno si vedrà, ma però la cosa impressionante, non vorrei che prego, questo venisse, prego. La cosa impressionante dal mio punto di vista è che anche, diciamo, chi ha proposto agli elettori invece una forza politica totalmente radicale, movimentista, legata, come il caso di Potere al Popolo, ai centri sociali giovanili e così via, però è stata bocciata clamorosamente. Quelli del Potere al Popolo festeggiavano ieri sera, allora bisognerebbe... No, ma nel senso, adesso io non è che voglio dire che siccome hanno festeggiato hanno vinto, però Naldi, se uno si presenta alle elezioni per ottenere un risultato. Naldi, perché ha preso l'1%. Lungi da me dal tenere le parti di Potere al Popolo, stavo semplicemente provando a fare qualche considerazione. Potere al Popolo è un partito che è nato abbastanza in sordina, è nato, diciamo, fuori dall'establishment politico, e più o meno tutto quello che è riuscito a tenere se l'è ottenuto in maniera anche abbastanza improvvisata. Altro conto è una macchina, perché di questo si trattava, di una macchina come Liberi Uguale, che al suo interno aveva tutta una serie di ingranaggi, e lì in quel caso mi scusi, io la macchina, siccome penso di averla vista molto dall'interno, non era così macchina. Ho molti dubbi che fosse questa macchina spettacolare, e soprattutto abbiamo avuto molto poco tempo anche per far conoscere una proposta politica, ma anche proprio per permettere alla macchina di rifunzionare come si sarebbe stato possibile. Però da domani Naldi, mettiamo una cesura, da domani come vi riguarderete, come vi rincontrerete e che cosa vi direte, magari anche con quelli di Potere al Popolo, ma magari anche con quelli del PD, magari anche con altre forze che sono in qualche maniera Io penso che noi dobbiamo svolgere, c'è anche una funzione politica comunque da svolgere, perché comunque sia in questo Parlamento che si andrà a costituire, noi in maniera, diciamo, molto più limitata di quanto avremmo voluto, però ci siamo, e quindi abbiamo anche un dovere. Io penso che abbiamo il dovere di proporre soluzioni, diciamo, che perlomeno mantengano il governo di questo paese su un piano di democrazia, di garanzia di democrazia. Quindi io cercherei, diciamo, di svolgere la nostra parte per evitare che al governo di questo paese ci siano forze palesemente razziste, con abbiamo visto anche simpatie neofasista e neonazista come la Lega. Quindi questo per me, senza voler dimenticare assolutamente quello che il PD in campagna elettorale ci ha voluto far dimenticare, cioè che Berlusconi è Berlusconi, non è propriamente un soggetto democratico per la stabilità. Quindi io penso che noi dovremmo fare in modo di verificare fino in fondo se c'è una possibilità di sostenere un governo che inevitabilmente deve rispettare una maggioranza di consensi che è andata a 5 Stelle e vedere, verificare se è possibile assieme anche al PD o almeno alla parte del PD permettere un governo con 5 Stelle che possa avere, diciamo così, la possibilità di lavorare su degli argomenti precisi, su dei punti precisi di merito, che sono quelli che noi abbiamo sollevato in campagna elettorale, che sicuramente non ha sollevato il PD, e questo capisco che è un problema. Poi quando si è fatta tutta una campagna elettorale come ha fatto il PD, come ha fatto però anche Prodi, per la stabilità, ovvero per l'establishment, capisco che è difficile poi riuscire, certo, e modificare la realtà, diciamo, di tante cose che si sono dette, che sono seminate anche presso i propri elettori. Beh, insomma, magari le dimissioni di Renzi potrebbero essere un primo passo in questo senso. Staremo a vedere. Che sicuramente sono una cosa che potrebbe aiutare a riprendere un cammino, diciamo, che unisca di nuovo in prospettiva i progressisti, però io almeno continuo a pensare che il nostro problema in questo paese è quello di ricostruire una forza di sinistra che abbia la credibilità per rappresentare il mondo del lavoro. Certo. Questo, a mio parere, è il problema. O, se uno preferisce, i mondi del lavoro, che oggi sono anche diversi uno dall'altro, però poi che scopriamo quando arriviamo in campagna elettorale che i lavoratori ci sono, e paradossalmente, diciamo, vedono nella sinistra una forza che non è in grado di rappresentare i loro interessi, al di là delle cose che diciamo, perché tutti quelli che si richiamano alla sinistra sostengono di voler rappresentare il mondo del lavoro, tutti, chi con una ricetta e chi con l'altra, il mondo del lavoro praticamente ignora questa volontà di rappresentazione da parte delle storie, delle formazioni che si richiamano alla storia della sinistra.